Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 3.2. Comunicazione e social media. Di Luca Brigida. Siamo davvero liberi di comunicare? Domanda semplice ma dalle mille risposte. Il diritto, specchio delle azioni umane, come si è posto nei confronti del libero pensiero? Per brevità di esposizione non potremo ripercorrere le manifestazioni storiche di questa tipologia di libertà e di come i governanti abbiano nel tempo provato a promuoverla o reprimerla. Ci basterà al contrario partire dall'assunto che abbiamo avuto il piacere o la sfortuna di vivere in un'età di passaggio. Infatti, diversamente dal passato, di stampo dittatoriale e repressivo, è ormai dato per certo che, in un contesto fortemente globalizzato, che ha visto dal dopoguerra in poi il proliferare di strumenti e piattaforme comunicative di vario genere, giornali, radio, social network, gli ordinamenti del mondo intero, tranne purtroppo non pochi casi, promuovono la libera manifestazione del pensiero critico. O almeno così sembra. Infatti, affermando un tale principio a livello universale, può la libertà essere poi ristretta nei singoli casi concreti, sacrificandola ad esempio in nome della sicurezza interna? Giungiamo così ad una conclusione. La libertà di pensiero è un concetto estremamente generico, quindi non assoluto, ma relativo, in quanto la relatività è data dal modo di atteggiarsi di tutti quei fenomeni che ne restringono fortemente la portata applicativa, arrivando in taluni casi addirittura a negarla del tutto. Ed è proprio all'interno di tale relatività che si annida il diritto, strumento di libertà o di oppressione, a seconda dell'uso che se ne voglia fare. Partendo dalla libertà di pensiero, su un piano internazionale, tale libertà è stata sancita come principio universale da due carte distinte: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la quale all'articolo 19 sancisce che ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. In secondo luogo si accosta a tale orientamento anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o CEDU, del 1950, la quale all'articolo 10 prevede che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. E come si sono posti nella Costituzione italiana del 1948 nei confronti di tale libertà? All'articolo 21 è indicato che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida, nelle 24 ore successive il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Da una rapida comparazione tra l'articolo 21 della Costituzione e le norme analoghe contenute nella Dichiarazione Universale e nella CEDU, avremo immediatamente chiari i limiti cui si faceva prima riferimento, i quali riducono tale diritto da assoluto a relativo. Tuttavia, come ben sappiamo, la libertà di pensiero può concretizzarsi anche nell'elaborazione materiale di atti creativi, frutto del proprio ingegno nei più disparati campi, dalla letteratura al teatro, dalla musica al cinema e così via. Cosa potrebbe accadere quindi se una persona esprimesse le proprie idee utilizzando opere frutto dell'ingegno altrui senza informarlo, senza richiederne l'autorizzazione o senza menzionarlo come autore? Su un piano di mera valutazione degli interessi in gioco, prevarrebbe la libertà di pensiero o il diritto d'autore altrui? In questo caso gli ordinamenti moderni non operano una scelta drastica tra un bianco e un nero, ma si affidano ad una scala di grigi costituita dalla valutazione in concreto degli interessi in gioco, facendo prevalere una volta l'uno e una volta l'altro. Il diritto d'autore è costituito al suo interno da due diverse sfaccettature. Il diritto morale d'autore, facoltà inalienabile e irrinunciabile, non sottoposta a limiti temporali, al riconoscimento della paternità di una determinata opera. Essa potrà essere liberamente rivendicata in qualsiasi momento, concedendo inoltre la relativa facoltà di disconoscimento di falsi o maldestre imitazioni. Il diritto di sfruttamento economico dell'opera, che si sostanzierà nella facoltà dell'autore alla libera e facoltativa pubblicazione, riproduzione di copie, rappresentazione in pubblico, distribuzione, traduzione, elaborazione, noleggio e prestito dell'opera stessa. E il termine inglese copyright potrebbe coincidere con il nostro diritto d'autore? In realtà il termine frutto dell'ordinamento di common law, il diritto anglo-statunitense, si sovrappone quasi perfettamente al nostro diritto d'autore, salvo una piccola ma fondamentale differenza. Mentre il primo, per il suo riconoscimento in via costitutiva, necessita dell'iscrizione dell'opera all'interno di un registro curato da un apposito ufficio di brevetti, il sosia nostrano non necessita di un'obbligatoria registrazione, tuttavia facoltativa con efficacia dichiarativa, ma si genera con la sola realizzazione materiale dell'idea che viene tradotta dalla nostra mente in realtà. Infine, nel caso in cui una persona mostri privatamente interesse nei confronti di una determinata ideologia, è possibile per un altro soggetto pubblico o privato esporre tale individuo alla berlina dell'intera comunità di riferimento? Ovviamente, vivendo in un'epoca dove la nostra riservatezza viene proclamata come principio inviolabile, la risposta ci appare del tutto scontata. Sicuramente prevarrà la nostra privacy. Eppure questa convinzione, al giorno d'oggi indubbia, è stata frutto di conquiste storiche, dove all'idea che le convinzioni intime di un individuo fossero rilevanti per l'intera comunità sociale e dovessero essere da questa accettate, si è pian piano sostituita la diversa idea che le proprie ideologie e i propri orientamenti siano proprietà del solo individuo a cui fanno riferimento. Egli quindi avrà la libertà di scegliere se custodire intimamente le proprie convinzioni o se urlarle al mondo intero. Ma anche in questo caso dovremmo domandarci se lo Stato possa reprimere il soggetto pensante per motivi di ordine pubblico. A questo punto siamo così sicuri, ad esempio, che l'oppositore al governo di turno venga represso in maniera sostanzialmente diversa da un soggetto che attenta con fini terroristici all'esistenza stessa dello Stato? La domanda è complessa e ci porterà alla solita conclusione. Il diritto può essere strumento di liberazione o repressione dipendendo solo dall'uso che se ne voglia fare. Nel nostro ordinamento giuridico dovremmo quindi considerare sempre la libertà di pensiero come la colonna portante sulla quale andremo ad accostare gli altri diritti e limiti, di cronaca, di critica, d'autore, la tutela della privacy e il copyright. Social network. Nonostante i primi spazi di socialità informatica siano nati da quasi due decenni attraverso blog, MySpace e YouTube, si può parlare di fenomeno social solamente dal lancio in Italia della prima piattaforma, Facebook, avvenuta nell'ormai lontano 2008. Nell'arco di quest'ultima decade, il fenomeno della comunicazione telematica si è largamente diffuso, fino a penetrare in maniera consistente nelle nostre vite, grazie anche alla rapida proliferazione di altri social network, quali Twitter, Instagram, LinkedIn, eccetera. L'aumento di tali strumenti ha presentato nuove problematiche che mai si erano poste all'attenzione dei giuristi. Ad esempio, l'offesa tramite un post pubblicato sul profilo di una persona a noi spiacevole può essere inquadrata come un'ingiuria, articolo 594 del codice penale, come se si fosse realizzata verbalmente in strada tra due passanti, oppure come una diffamazione a mezza stampa, articolo 595-599 del codice penale, reato tipico del giornalista. Questi e altri problemi sono stati al centro dell'inquadramento fortemente innovativo di questa materia, così attuale da mutare di giorno in giorno sulle orme di una ormai incontrollata rivoluzione tecnologica. Segnalazioni sui social network. A chiunque sarà capitato di sentire che alcuni profili di persone attive sui social siano stati bloccati o sospesi, oppure che un loro post sia stato rimosso. Ma cosa vuol dire? In base a quali parametri un pensiero espresso tramite tastiera può ritenersi sgradito o non consono alla pubblica piazza? In questo paragrafo ci occuperemo del fondamento del diritto di critica e di satira, dei suoi limiti e del conseguente trattamento sanzionatorio operato dai social network, blocco, sospensione, rimozione dei contenuti, su segnalazioni di altri utenti iscritti alla medesima piattaforma e non. Prima di tutto, bisogna specificare che questa categoria di azioni è ricompresa all'interno del servizio di tutela della sicurezza e di fruizione responsabile dei maggiori social network esistenti. Il meccanismo è semplice. Una volta che un utente abbia individuato un contenuto ritenuto non consono ad una visione pubblica, può attivare una semplice segnalazione direttamente agli uffici di gestione della piattaforma, i quali non opereranno una rimozione automatica, ma in via preventiva effettueranno un controllo di omogeneità del contenuto agli standard d'uso della comunità, che ognuno di noi è obbligo ad accettare al momento dell'iscrizione. Ove la segnalazione avesse rispondenza positiva, il contenuto verrà rimosso, altrimenti sarà mantenuto perché è valido. Ma in base a quali elementi un contenuto può essere ritenuto consono o offensivo? La risposta, come abbiamo già detto, andrà rintracciata all'interno delle condizioni d'uso che ci vengono sottoposte ad accettazione obbligatoria al momento dell'iscrizione, ossia i cosiddetti standard della community. A livello esemplificativo, esamineremo quelli offerti dal social network più frequentato da utenti italiani, Facebook, i cui standard sono molto simili, se non in alcuni casi identici, a quelli posti dalle altre piattaforme. Tramite gli standard, Facebook pone alcuni principi cardine della sua normativa. Quali? Sicurezza. Partendo dall'assunto che una comunità vi è solo ove le persone si sentono libere di potersi esprimere, vengono censurati contenuti che incitano alla violenza reale, danni fisici, finanziari e emotivi. Voce. Nel tentativo di abbracciare vari punti di vista è tollerata la presenza di contenuti quantunque discutibili che non costituiscono una violenza o una minaccia. La valutazione di tali contenuti passa attraverso una comparazione tra il valore di interesse pubblico di quel determinato contenuto e il concreto rischio di violenza reale. Equità. Per quanto riguarda questo principio, la piattaforma si scusa preventivamente per un'eventuale rigida applicazione della propria normativa a contesti sociali diversificati come quelli che raggiunge, avendo un'estensione globale, tentando di applicare poche semplici regole nella maniera il più possibile equa. Infine, confida nella partecipazione degli stessi utenti al mantenimento della sicurezza della comunità, predisponendo strumenti quali il blocco o l'oscuramento di profili a noi poco graditi, o in casi più gravi, la segnalazione di contenuti contrari agli standard. In quest'ultimo caso, l'applicazione delle sanzioni agli utenti seguirà un criterio di progressività, per cui si potrà andare da una semplice sospensione per un limitato periodo alla chiusura del proprio profilo, arrivando fino alla segnalazione delle violazioni alle forze dell'ordine. Le questioni per le quali Facebook può attivarsi sono divise in categorie prestabilite. Violenza e comportamenti criminali. Vengono considerati rilevanti solo i comportamenti che facciano presupporre un concreto e possibile rischio di violenza, come un danno fisico o minaccia alla sicurezza pubblica, o comunque l'incitamento concreto alla violenza di qualsiasi tipo. Persone e organizzazioni pericolose. Vengono censurate organizzazioni e individui coinvolti in terrorismo, qualsiasi organizzazione non governativa coinvolta in atti premeditati di violenza contro cose o persone per intimidire una popolazione civile, un governo o un'organizzazione internazionale per raggiungere uno scopo politico, religioso o ideologico. Odio organizzato, associazione di almeno 3 persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come la razza, il credo religioso, la nazionalità, l'etnia, il genere, il sesso, l'orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità. Omicidio di massa o seriale, traffico di esseri umani, violenza organizzata o attività criminale, oltre alle incitazioni in forma di sostegno alle suddette organizzazioni o individui. Promozione o pubblicazione di attività criminali. Anche in questo caso, come quello di cui sopra, visto l'elevato rischio di emulazione, non è consentita la confessione o l'incitamento alla conclusione di tale attività, mentre viene fatto salvo un diritto di critica o di satira. Beni soggetti a limitazioni legali. Viene impedita la vendita e il commercio di oggetti sui quali l'ordinamento giuridico abbia posto delle forti restrizioni o divieti, ad esempio sostanze stupefacenti o armi. Contenuti vietati. Suicidio e autolesionismo, nudità e sfruttamento sessuale di bambini o adulti, bullismo, molestie, violazione della privacy e diritti di privacy sulle immagini. Autenticità. Vengono limitati contenuti quali spam, manomissione di identità e fake news. Proprietà intellettuale. Come vedremo alla fine di questo paragrafo, vengono censurate attività lesive del diritto d'autore e del copyright altrui. A prima vista sembrerebbe un sistema che potrebbe autodeterminarsi tramite il monitoraggio costante e responsabile degli stessi utenti che abitano la piattaforma, ma scendendo al lato pratico della questione, ci si domanda come dei contenuti che incitano alla palese violenza o ad apologie considerate vietate dal nostro ordinamento, ad esempio pagine, utenti e contenuti che inneggiano al fascismo o alla violenza razziale, siano comunque tollerate dagli uffici di gestione dei social network, anche se palesemente in contrasto con gli standard della community appena analizzati. Insulto sui social, quale reato può configurare? All'inizio di questo capitolo, tramite un banale esempio, ci eravamo posti il problema di come i giuristi avessero nel tempo inquadrato l'offesa arrecata ad un determinato soggetto tramite i moderni strumenti di comunicazione. Nonostante il legislatore sia recentemente intervenuto in materia penale, attraverso l'introduzione dei cosiddetti crimini informatici, legge 48 del 2008, non ha tuttavia previsto alcuna fattispecie speciale che si occupi del caso in cui un determinato soggetto ne screditi un altro tramite l'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Per prima cosa dovremmo fare riferimento a quella famiglia di reati denominati delitti contro l'onore. Sono quei delitti che fanno riferimento all'offesa contro l'altrui considerazione sociale o decoro. All'interno di questa categoria, articoli 594-599 del codice penale, fino a poco tempo fa, e cioè fino alla recente abrogazione nel 2016 dell'articolo 594, reato di ingiuria, vi potevamo trovare due determinati tipi di illeciti, che nel gergo comune venivano spesso fraintesi ed utilizzati come sinonimi, ma che in realtà nascondevano una profonda differenza. Ci riferiamo in questo caso ai reati di ingiuria, articolo 594, e diffamazione, articolo 595. L'ingiuria prendeva in considerazione l'ipotesi di un'offesa rivolta ad un soggetto presente al momento dell'atto lesivo e che fosse stato capace di percepire il disvalore dell'azione altrui, con la conseguente possibilità di difendersi. La diffamazione viene tuttora applicata ai casi in cui il soggetto leso non sia presente al momento dell'offesa, alla sua reputazione, di fronte a più persone, non potendosi così immediatamente difendere o non sia in grado di comprendere il disvalore delle argomentazioni altrui, ad esempio persone incapaci di intendere e di volere. Inoltre, in questo secondo caso, se l'individuo dovesse imputare al soggetto leso un determinato fatto, il quale poi si rivela falso, come avviene ad esempio con pettegolezzi di una certa gravità, o con l'imputazione di un reato senza averne le prove, questa determinata fattispecie costituirebbe una circostanza aggravante del reato base di diffamazione. Nella nostra fattispecie di insulto tramite strumenti informatici, a quale dei due reati dovremmo fare riferimento? Vista la genericità della definizione contenuta all'interno dell'articolo 595 in materia di diffamazione, una giurisprudenza costante ha ricondotto l'offesa al prestigio sociale di una persona tramite i social network al reato di diffamazione, e più precisamente alla diffamazione a mezzo stampa. Articolo 595,3. Questo tipo di illecito è riconducibile a quello base della diffamazione, aggravato però dal fatto che l'autore abbia utilizzato uno strumento di indiscriminata propagazione dell'offesa stessa, tramite ad esempio un qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come un social network, il quale per sua natura può raggiungere un numero indefinito di soggetti. Ci si chiede così se questa previsione non possa limitare fortemente il proprio diritto di cronaca e di critica. Ad un attento esame dei fatti dovremmo rispondere in modo negativo, poiché tali diritti sono riconosciuti solo nella misura in cui essi vengono esercitati in maniera lecita, entro canoni costituzionalmente garantiti, come l'esposizione di fatti veritieri, dato che l'imputazione ad un soggetto di un fatto o di una qualità negativa, poi scoperta falsa, comporta l'applicazione di una circostanza aggravante del reato base, l'utilità sociale delle informazioni riportate ed una forma di esposizione civile dei fatti che rispetti l'altrui onore e decoro. Quindi questo importante strumento di comunicazione e di formazione della coscienza politica e sociale delle masse, se si vuole intraprendere un'attività di informazione e denuncia libera e indipendente, va sicuramente utilizzato in maniera intelligente, senza offrire alle varie autorità competenti un pretesto per azionare il meccanismo della repressione, questa volta informatica. Tanto più se si pensa che un'offesa diretta al corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui al comma 4, può comportare un'ulteriore circostanza aggravante in riferimento al reato base della diffamazione. Quindi, in sintesi, la libera partecipazione al dibattito pubblico, che ogni giorno impazza sui social network, è un diritto costituzionalmente garantito, purché tale libertà non sfoci nell'offesa penalmente rilevante. Il social network è la repressione di libere iniziative collettive, il caso Netflix. Nel panorama degli attuali fenomeni di contatto tra diritti opposti da inserire in un giudizio di comparazione, dobbiamo considerare un fenomeno più che mai attuale, il quale ha visto uno scontro tra la libera diffusione di materiale audiovisivo e il relativo diritto dell'azienda produttrice e o distributrice a vietarne la riproduzione collettiva, come è avvenuto con la serie di iniziative spontanee volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso la proiezione collettiva di pellicole cinematografiche. Un caso per tutti, quello del film Sulla mia pelle, il quale narra la tristemente nota vicenda di Stefano Cucchi, ragazzo morto dietro le sbarre in circostanze ad oggi misteriose. In questo caso, l'azienda produttrice ha tentato di impedire la libera visione del proprio prodotto, ma, diversamente da casi analoghi meno recenti, questa volta utilizzando i moderni meccanismi di segnalazione di eventi sulle piattaforme social, al fine di ottenerne la loro rimozione. In questi casi è lecito limitare questi eventi pubblici? Partiamo dalla storia. A pochi giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche e sul sito di Netflix dell'ormai omonimo film Sulla mia pelle, un ingente numero di associazioni, collettivi universitari, centri sociali e organizzazioni politiche, nella speranza di focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vicenda di Stefano Cucchi, ragazzo brutalmente ucciso dalle forze dell'ordine, ha iniziato a creare una serie di eventi su Facebook volte all'organizzazione di una proiezione collettiva in spazi pubblici e o aperti al pubblico. Dopo pochissimo tempo è seguita la risposta di Netflix, azienda produttrice del film, e di Lucky Red, azienda distributrice, le quali hanno iniziato a segnalare agli organismi di gestione del social network questi eventi, i quali iniziavano a raccogliere migliaia di adesioni e interessamenti. Dal canto suo, Facebook ha accettato le argomentazioni delle due aziende, sostenendo così che sui propri spazi non potessero essere pubblicate iniziative gratuite su materiale protetto da copyright. Nonostante tutto, la società civile a vario titolo organizzata ha lo stesso deciso di mantenere in piedi gli eventi pubblicizzati, sfidando il diritto d'autore delle aziende e la censura imposta da Facebook. Tralasciando opinioni di natura politica, le quali ci vedrebbero schierati dalla parte di chi sta tentando di riaprire un caso giudiziario tramite l'onda mediatica generata da questo film, se ci fermiamo ad un'analisi giuridica dell'intera vicenda, dovremmo tuttavia propendere per l'idea che, in questo caso, le segnalazioni delle aziende e la censura imposta dal social network siano più che mai lecite, essendo conformi ai diritti vantati e alle condizioni d'utilizzo sottoscritte dall'utente al momento della registrazione al social network. Quindi a volte, oltrepassare i limiti del lecito per convinzioni personali ritenute di maggior rilievo, violando così consapevolmente la legge, può essere una scelta che ci viene imposta. Tornando indietro nel tempo, pensiamo al mito di Antigone narrato da Sofocle, dove quest'ultima seppellì il fratello Polinice, violando deliberatamente la legge umana imposta dal sovrano Creonte, perché sentiva di rispondere ad una più alta legge divina. Multimedialità. In questo paragrafo ci occupiamo di quelli che sono gli strumenti multimediali più utilizzati nel panorama dei social e mass media moderni, ovvero le fotografie e le riprese video. Nel corso degli ultimi anni, a causa del loro crescente utilizzo, ad esempio tramite smartphone e social network, questi mezzi hanno comportato un aumento di nuove problematiche giuridiche. Per comodità di esposizione, in relazione ad essi, analizzeremo in un primo momento il diritto d'autore e la tutela della privacy dei soggetti ritratti. Poi affronteremo il caso delle raffigurazioni di forze dell'ordine e pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni, fino ad arrivare al sequestro del materiale video fotografico utile a indagini o procedimenti giudiziari. Diritto d'autore. Il regime giuridico delle immagini riprodotte sotto forma di fotografia è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso un regio decreto del 1925, il quale le riconosceva a pieno titolo la qualità di opere dell'ingegno, al pari delle altre invenzioni ed opere d'arte. Anni dopo, con la prima legge sul diritto d'autore, legge numero 633 del 1941, base della moderna disciplina e oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, tali opere persero questa qualità, riacquisita poi attraverso la Convenzione di Parigi del 1971, ratificata dall'Italia solo nel 1979. Attraverso quest'ultimo atto, il legislatore italiano ha operato un'estensione definitiva del diritto d'autore alle opere fotografiche e alle opere analoghe, tra le quali devono essere considerate le riprese video. Secondo la legge sul diritto d'autore, si deve operare una tripartizione delle tipologie di fotografie, così da accordare una particolare protezione solo ad alcune di esse. Le categorie consistono in 1. Opera fotografica. Si distingue per la sua intrinseca natura creativa. Al pari delle altre opere dell'ingegno, anche queste ultime sono tutelate con i relativi diritti morali e patrimoniali d'autore, riconosciute in capo al fotografo, il quale si vedrà attribuito il diritto al libero sfruttamento economico dell'opera di cui egli è autore e potrà riprodurla, duplicarla, trasformarla, commercializzarla, noleggiarla, renderla pubblica, eccetera. In riferimento a questa categoria, tale diritto ha una durata che si estende per tutta la vita dell'autore e fino al 70° anno dalla sua morte, diritto di sfruttamento che in questo caso sarà vantato dai suoi eredi. In qualsiasi caso sarà comunque necessario indicare il nome dell'autore. Vi sono numerose teorie che tendono alla ricerca di un criterio distinto tra tale categoria e quella della fotografia semplice, ma in via di approssimazione potremmo concludere che tale criterio risiede nel fatto che l'autore, attraverso la foto, abbia inteso comunicare un messaggio diverso e ulteriore rispetto alla stessa riproduzione meccanica ed oggettiva della realtà, filtrando quest'ultima tramite una propria visione soggettiva, dato non riscontrabile al contrario nella fotografia semplice. 2. Fotografia semplice. È un'immagine che ritrae persone, aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, riproduzioni di opere d'arte e fotogrammi delle pellicole cinematografiche. La durata del diritto di sfruttamento riconosciuta a tale categoria è di 20 anni dalla data della sua realizzazione. Le facoltà concesse all'autore sono un nucleo limitato rispetto al pieno diritto d'autore accordato all'opera fotografica. Esse sono l'esclusivo diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della propria fotografia. Tale tutela giuridica sarà riconosciuta all'autore solamente ove questi indichi il suo nominativo, la data di produzione e l'autore dell'opera d'arte eventualmente ritratta. Altrimenti la riproduzione da parte di terzi non dovrà considerarsi illecita e questi non dovranno all'autore alcun compenso economico, a meno che egli non provi la loro malafede. 3. Fotografie documentali. Ritraggono scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. In ordine a questa categoria non viene riconosciuto alcun tipo di diritto d'autore, né morale né di utilizzazione economica dell'immagine, salvo il caso in cui venga ravvisata una natura creativa, poiché in tal caso saranno paragonate alle opere fotografiche. In quest'epoca, dove la diffusione di dati e immagini risulta ormai all'ordine del giorno, le fotografie e i video diffusi su internet e sulla piattaforma dei social network si sono moltiplicate a dismisura. In questi casi l'utilizzo e la pubblicazione su internet effettuata da terzi è lecita, purché questi inseriscano informazioni attraverso le quali il pubblico possa risalire all'autore, alla data e al titolo dell'opera. In caso contrario, come abbiamo già avuto modo di vedere analizzando il mondo dei social network, l'omissione di tali informazioni costituirà una violazione degli standard della community per violazione del diritto d'autore altrui, con tutte le relative conseguenze prima indicate. Una recente giurisprudenza è addirittura arrivata a concepire la liceità della diffusione di tali opere, assumendo che, nel caso in cui l'autore dovesse pubblicare una foto sui social e simili, piattaforme facilmente raggiungibili dal pubblico, questo atto deve essere inteso come una presunzione di autorizzazione all'uso di tali immagini da parte del pubblico, fatti ovviamente salvi gli obblighi di indicazione delle generalità dell'opera. Il diritto allo sfruttamento economico dell'opera può essere ceduto tramite contratto a terzi, ma la cessione effettiva dovrà individuarsi nell'atto della consegna materiale dei negativi o della pellicola. È inoltre prevista la possibilità di libera utilizzazione del materiale da parte di terzi, previo riconoscimento di un equo compenso, ma solo in un limitato numero di campi espressamente indicati, come l'inserimento di immagini dei libri di testo scolastici e nelle opere scientifiche e didattiche. Il terzo dovrà comunque indicare il nome dell'autore, la data di realizzazione. Nel caso in cui l'attività di fotografo o di videomaking sia soggetto o parte integrante delle prestazioni di un contratto di lavoro, ad esempio book fotografici nel campo della moda, campagne pubblicitarie, eccetera, i diritti relativi alle opere realizzate durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, adempiendo agli obblighi assunti in sede contrattuale, subiranno una deroga. L'autore infatti manterrà il diritto morale alla paternità dell'opera, ma da contratto sarà obbligato alla cessione del conseguente diritto allo sfruttamento economico dell'opera realizzata. Nel caso invece in cui una fotografia semplice sia stata commissionata nell'ambito della libera professione di fotografo, il committente dell'opera si vedrà riconosciuti i diritti di utilizzazione dell'immagine solo ove l'oggetto ritratto sia in suo possesso. Inoltre, nel caso in cui ne effettui un uso commerciale, dovrà riconoscere al fotografo un equo compenso. Attraverso il decreto legislativo numero 68 del 2003, emanato in un'attuazione di una direttiva europea di allineamento delle varie discipline interne agli Stati membri, si è proceduto a una revisione della normativa relativa al diritto d'autore. Tra le varie novità vi è stata un'estensione del regime di utilizzo delle opere fotografiche per contribuire ad una migliore realizzazione del diritto di cronaca, fatto salvo il dovere di indicare il nominativo dell'autore e la fonte. Inoltre, ai fini della tutela della pubblica sicurezza, viene riconosciuto un libero utilizzo dell'opera senza la necessità di riconoscere alcun compenso all'autore. In favore invece della diffusione e facile fruizione del patrimonio culturale, viene concesso agli istituti operanti nel settore, ad esempio biblioteche e musei, la libera riproduzione, senza fini di lucro, di opere fotografiche e di riprese video, fatto salvo il riconoscimento di un equo compenso nei confronti dell'autore. Inoltre è concessa la libertà di riproduzione senza fini di lucro di immagini a bassa risoluzione o degradate per utilizzo scientifico o didattico. Infatti, nel caso di portatori di handicap, viene loro riconosciuto un diritto alla libera riproduzione senza fini commerciali di opere protette, purché queste siano direttamente collegate alla disabilità da loro sofferta. Tutela della privacy. La disciplina inerente alla tutela dell'informazione e degli orientamenti sessuali, politici, religiosi, eccetera, della persona è stata introdotta nel nostro ordinamento tramite la legge numero 675 del 1996. Questo corpus di norme è stato poi abrogato in favore di una nuova normativa, il decreto legislativo numero 196 del 2003, comunemente chiamato Codice in materia di protezione dei dati personali. Nel campo della fotografia, attraverso la nuova normativa, non sono state registrate grandi innovazioni rispetto alla precedente disciplina, salvo la necessità di chiedere l'esplicito consenso per la pubblicazione di immagini che riguardano la salute dei personaggi pubblici. Da ultimi, l'intera materia è stata recentemente posta in una fase di reinterpretazione alla luce del nuovo regolamento comunitario 2016-679 dell'Unione Europea, denominato GDPR, cui ci si deve adeguare. Tra le varie novità introdotte vediamo un aumento delle prescrizioni da inserire e comunicare all'interno della cosiddetta informativa, un incremento del numero dei diritti riconosciuti ai titolari di dati personali e sensibili e infine un incremento degli obblighi di mantenimento in sicurezza dei dati da parte del responsabile o incaricato al trattamento dei dati personali, ossia il custode dell'archivio delle informazioni o dati sensibili della persona registrati presso una società, associazione o ente a vario titolo costituito. Innanzitutto dobbiamo distinguere il caso in cui una fotografia sia stata scattata in un luogo pubblico o in un luogo privato. Così avremo: in un luogo pubblico, in questo caso la fotografia o ripresa di soggetti conosciuti o sconosciuti in un luogo pubblico sarà lecita, purché in un secondo momento l'autore dell'immagine non la diffonde senza il previo consenso del soggetto ritratto. In relazione al difficile problema di ottenere un consenso da una moltitudine presente ad un evento pubblico in un luogo molto affollato, ad esempio un concerto o la spiaggia in estate, in via generale è stata permessa la diffusione di immagini raffiguranti persone che non abbiano rilasciato l'autorizzazione all'autore, purché dalla qualità delle immagini non si possa risalire all'identità dei soggetti ritratti o questi ultimi non siano il soggetto principale dello scatto, ad esempio foto al panorama. Discorso a parte invece per i personaggi famosi e di pubblico interesse, per i quali la pubblicazione delle loro fotografie è concessa, purché ciò non leda la loro reputazione, ad esempio i giornali scandalistici, o le foto siano state carpite in un luogo privato. Allo stesso trattamento soggiace l'immagine carpita per ragioni didattiche o di interesse culturale. Infine, la Cassazione ha riconosciuto in via generale il diritto alla ripresa di soggetti in maniera occulta, ad esempio telecamere nascoste, purché tale materiale non sia destinato alla diffusione e consti unicamente nella tutela di un diritto proprio o altrui. L'intera disciplina può essere estesa anche in luoghi aperti al pubblico, ad esempio il cinema, il teatro, eccetera, i quali differiscono dai luoghi pubblici per il fatto che sono luoghi privati dove però è concesso l'ingresso al pubblico. In questi casi vi potranno essere delle restrizioni operate dal proprietario del luogo che dovranno essere rispettate. In luogo privato è vietata a qualsiasi titolo la ripresa di un soggetto senza il suo previo consenso, come nella propria abitazione o nel proprio posto di lavoro. Nel caso di violazione della privacy tramite la ripresa o lo scatto di fotografie, l'autore dell'illecito risponderà del reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, articolo 615 bis del codice penale. Tale norma, posta a tutela della riservatezza della vita privata, ricomprende nella più ampia libertà di manifestazione della propria personalità, tutela la persona nella sua sfera privata all'interno dei luoghi di privata dimora e prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni, circostanze aggravanti escluse. Alla stessa pena soggiace, come sostenuto dalla giurisprudenza italiana ed europea, anche l'autore dell'illecito, che, avendo sì ripreso un soggetto in un luogo pubblico e non avendo diffuso i suoi scatti, abbia però messo in moto un atteggiamento persecutorio, come ad esempio un pedinamento. Nel caso in cui poi l'atto di per sé lesivo contenga anche un'offesa all'onore o reputazione del soggetto ritratto, si risponderà anche a titolo di diffamazione, articolo 595 del codice penale. In ogni caso sarà possibile per il soggetto leso chiedere un risarcimento del danno sofferto. Come più volte ribadito invece dalla più recente dottrina e giurisprudenza, il consenso del soggetto ad essere ritratto non costituisce implicitamente un'autorizzazione alla diffusione dell'immagine tramite i tradizionali o i nuovi strumenti di comunicazione, come ad esempio un social network. Per quest'ultima attività è richiesta infatti una specifica ed ulteriore autorizzazione. Inoltre, se questa voglia ottenere la distribuzione o cancellazione dei negativi, pellicole o informazioni che lo riguardano, ottenute senza il suo consenso, l'autore dell'opera dovrà attuare immediatamente e in modo gratuito ciò che gli viene richiesto. Infine, ove il primo intenda farsi consegnare i materiali su indicati, dovrà riconoscere al secondo un equo compenso. Consenso del soggetto ritratto. Occorre fare chiarezza nel distinguere i dati personali, nome, cognome, età, eccetera, dai dati sensibili, condizioni di salute, orientamenti sessuali, politici, religiosi, eccetera, poiché questi ultimi vedono riconosciuta una maggiore tutela rispetto ai primi, soprattutto nel caso di una loro comunicazione obbligatoria al garante della privacy. Secondo, poi, dovremo distinguere tra due diversi tipi di atti che sono generalmente confusi. 1. Informativa sulla privacy. Generalmente deve essere illustrata prima dell'atto di realizzare foto o riprese. Sorge così il dovere del fotografo, videomaker, di informare anche oralmente il soggetto ritratto del trattamento giuridico e materiale che sarà effettuato sui suoi dati. Di solito è predisposto un modulo standard, poi è richiesta in forma scritta la sottoscrizione del soggetto all'uso dei dati personali, il quale dichiara inoltre di essere stato sufficientemente informato dei suoi diritti e del trattamento dei suoi dati personali. 2. Liberatoria autorizzazione alla pubblicazione di foto e video. Questo diverso tipo di documento contiene invece l'autorizzazione alla diffusione di immagini che ci vedono ritratti ed eventualmente contiene dei precisi limiti spaziali e temporali di diffusione. Il contenuto potrà essere vario e sarà disposto in relazione all'uso che del materiale video fotografico se ne voglia fare. Come abbiamo appena avuto modo di vedere, fotografare una persona per strada senza il suo consenso viene considerato come un atto illecito. Ci viene così da domandarci come mai gli investigatori privati possono appostarsi e fotografare un soggetto a sua insaputa. Tale comportamento non violerebbe l'articolo 615 bis del codice penale? In realtà, una delle poche deroghe a questa norma è prevista nel caso in cui la finalità della fotografia sia per ragione di giustizia. Argomentando meglio, nel caso in cui il detective sia assoldato per documentare un illecito di vario tipo, tradimento, assenteismo dal lavoro, eccetera, le foto da lui scattate potranno essere utilizzate davanti al giudice come prova nel corso del processo. Esempio, per giustificare un licenziamento a causa di un falso permesso per malattia. Ciò che invece un datore di lavoro non potrà fare sarà scattare delle foto nei locali della sua azienda, poiché il monitoraggio videofotografico del dipendente sul posto di lavoro è espressamente vietato dallo Statuto dei lavoratori. Nel caso in cui i soggetti ritratti siano invece minori, visto il maggior livello di tutela richiesto e dovuto alle loro impossibilità di difendersi, la normativa assume contorni più rigidi, prevedendo ad esempio pene più elevate. Vi è infatti un assoluto divieto di ritrarre bambini e minori, salvo il caso in cui ciò non sia autorizzato da entrambi i genitori. Inoltre, nel caso di diffusione dell'immagine, ad esempio tramite social network, oltre ad un'apposita liberatoria più stringente sugli obblighi dell'autore della foto-video, vi deve essere il consenso congiunto di entrambi i genitori, così come confermato da un recente decreto del 2017 proveniente dal Tribunale di Mantova. Nel caso in cui la foto abbia scopi pubblicitari o commerciali, i genitori potranno riscuotere il compenso solo dietro autorizzazione del giudice tutelare in seguito ad apposita istanza presentata da questi ultimi. In caso di violazione delle prescrizioni relative alla figura del minore, sono accordate in capo ad esso delle pretese di natura risarcitoria, oltre alla rimozione immediata delle immagini, nel caso in cui la diffusione del materiale abbia ingenerato un danno di natura morale e non. Per quanto riguarda invece l'ambito del diritto penale, il soggetto colpevole di aver scattato o diffuso una foto in maniera illecita, procurando per sé o altri un ingiusto guadagno, risponderà dell'articolo 167 del codice della privacy, ossia il cosiddetto trattamento illecito di dati, per il quale sono previste delle pene più severe rispetto alla violazione del diritto di un soggetto leso maggiorenne. Prima di concludere, è necessario illustrare brevemente la figura di un organo di garanzia posto a tutela del corretto trattamento dei dati personali, il cosiddetto garante per la protezione dei dati personali o garante della privacy. Questa figura è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy, legge numero 675 del 1996, i cui poteri sono stati ampliati dal codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 196 del 2003, modificato dal decreto legislativo 101 del 2018, in attuazione del regolamento GDPR, regolamento 2016-679 Unione Europea, il quale ha designato questa figura come autorità di controllo dell'attuazione del medesimo atto. Tra i vari compiti che gli sono attribuiti, figurano il controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di privacy, l'esame di reclami e segnalazioni inerenti a violazioni della normativa presentati dagli interessati, la possibilità di vietare e/o bloccare trattamenti illeciti, di segnalare al Parlamento la necessità di nuovi strumenti normativi più adatti a combattere tali violazioni, di formulare pareri sulle materie di sua competenza, eccetera. Giornalismo. In questo capitolo ci occuperemo di individuare diritti, limiti e obblighi nascenti dal più ampio diritto di cronaca del giornalista. Diritti di cronaca e limiti. Il diritto di cronaca, forma tipica di manifestazione della libertà di pensiero, è il diritto di un soggetto a rendere accessibile a tutti il materiale collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico. La sua funzione è la libera raccolta di informazioni, per poi restituirle alla collettività tramite un'attività di diffusione delle notizie. La famiglia di norme relative al diritto di cronaca viene applicata a qualsiasi soggetto, anche non iscritto all'albo dei giornalisti, che si trovi nella situazione di descrivere un accadimento o evento di pubblico interesse tramite un qualsiasi mezzo di informazione o diffusione. Come ogni diritto, anche quello di cronaca ha dei limiti costituzionalmente riconosciuti. Infatti, come abbiamo già avuto modo di vedere, i confini della libertà di manifestazione del pensiero spesso e volentieri arrivano a confondersi con quelli del reato di diffamazione a mezza stampa, offrendo così un terreno fertile al susseguirsi di numerose interpretazioni da parte dei giuristi. Ma come assunto generale dovremmo concludere che la circolazione protetta di informazioni personali non dovrà mai costituire un limite assoluto alla libertà di stampa, così come la libertà di cronaca e critica non dovranno mai trasformarsi in una cosiddetta libertà di diffamazione. Una tutela del diritto di cronaca è ricondotta dalla giurisprudenza prevalente anche all'interno delle cosiddette scriminanti o cause di esclusione della pena contenute negli articoli 50 e 54 del Codice Penale. In particolare, all'articolo 51, rubricato esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, al primo comma è indicato che l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità. Così, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, tra i diritti riconosciuti come cause scriminanti è ricondotto anche il diritto di cronaca e critica come forme di manifestazione della più ampia libertà di pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione. In tempi meno recenti, questo diritto veniva preso in considerazione solo per talune materie privilegiate, come la politica, l'arte, la scienza o la religione, seguendo così un orientamento funzionale all'espressione del diritto. E cioè tale condizione di esclusione della pena era riconosciuta unicamente per il soggetto che esprimesse il suo diritto di critica in una delle materie protette su indicate. Oggigiorno, al contrario, vi è stata un'estensione delle materie coperte da questa norma, quindi la persona potrà esprimere liberamente il suo pensiero nei più disparati campi della vita pubblica, rispettando ovviamente alcuni limiti costituzionalmente garantiti. Tali limiti costituiscono cause di punibilità di comportamenti delittuosi e possono essere così riassunti: pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, articolo 656 del Codice Penale, dove falsa è la notizia completamente difforme dal vero, esagerata quella che anche riposando su una base di verità ne estende eccessivamente la portata, e tendenziosa quella che, pur riferendosi al vero, viene presentata in modo tale da ingenerare nel destinatario una rappresentazione falsa della realtà. Diffusione di atti, immagini e informazioni coperti da segretezza processuale e giudiziale. È impedita la diffusione di atti relativi a indagini preliminari, giudiziarie o a qualsiasi altro tipo di documento o informazione fin quando siano coperti da segreto. Diffusione di generalità di minorenni coinvolti in un processo. Procacciamento e diffusione di notizie relative a segreti di Stato o notizie di cui è vietata la divulgazione. Procacciamento illecito di informazioni tramite cognizione fraudolenta o intercettazione telefonica. Diffamazione a mezzo stampa. violazione del segreto professionale. I giornalisti, senza consenso della persona fonte dell'informazione, non sono autorizzati a rivelarne le generalità, salvo su ordine del magistrato nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della prova. Fonti normative. Il diritto di cronaca, non previsto specificatamente in alcuna norma dell'ordinamento italiano, ma considerato quale forma di manifestazione della libertà del pensiero all'articolo 21 della Costituzione, può essere riempito di contenuto guardando a tutta una serie di disposizioni primarie e secondarie. In prima battuta si può considerare l'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti numero 69 del 1963, ordinamento della professione di giornalista, in base al quale è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. All'interno della stessa legge, l'articolo 48 dispone un procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti all'albo dei giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi alla loro dignità professionale o che possano compromettere la reputazione dell'intero ordine dei giornalisti. Successivamente, la categoria lavorativa dei giornalisti si è spesso opposta alla limitazione dell'esercizio del diritto di cronaca operata da simili leggi, tentando così di ritardare la stesura di un codice deontologico disciplinante l'intera materia. Tuttavia, quest'ultimo ha visto la luce nel 1993 tramite la Carta dei doveri del giornalista, la quale elenca i principi fondamentali del libero recepimento e divulgazione delle notizie, in premessa facendo riferimento all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 2 della legge 69 del 1963, vengono considerati una serie di principi, quali: la libertà di informazione e di critica è un diritto insopprimibile e un dovere inderogabile del giornalista, limitato dalla verità sostanziale, dalle norme a tutela della personalità altrui, dalla lealtà e dalla buona fede. Le notizie risultate errate devono essere rettificate. I giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto professionale se questo è richiesto dal carattere fiduciario delle fonti. Sono altresì tenuti a promuovere la collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia fra stampa e lettori. Il testo viene poi suddiviso in due capitoli, uno dedicato ai principi e uno ai doveri del giornalista. A sua volta quest'ultimo è suddiviso in sette paragrafi. Responsabilità del giornalista. Egli non può seguire interessi diversi e in conflitto con la sua attività di giornalista. Deve attenersi all'indirizzo della sua testata purché questo non contrasti con le leggi in materia di giornalismo e non deve commettere alcuna discriminazione tra soggetti. In riferimento alla privacy, egli dovrà sempre identificarsi ai soggetti intervistati e non dovrà indicare le generalità di questi ultimi, salvo una loro espressa autorizzazione o la circostanza che questi abbiano una forte rilevanza pubblica, ad esempio esponenti politici. Obbligo di rettifica e replica. Nel caso di notizie errate o false, il giornalista avrà il diritto dovere di rettificarle. Inoltre, nel caso in cui un soggetto riceva delle accuse, egli avrà il diritto di replicare a queste ultime. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il giornalista dovrà informarne i lettori. Inoltre, quest'ultimo non potrà rendere noto un avviso di garanzia prima che l'interessato lo abbia ricevuto. Presunzione di innocenza. Nei casi giudiziari il giornalista dovrà sempre ricordare la presunzione di innocenza dell'imputato ai suoi lettori e, nel caso in cui egli venga assolto, dovrà immediatamente menzionare tale aggiornamento, facendo anche riferimento all'articolo in cui narra le vicende processuali. Fonti. Il giornalista avrà sempre l'obbligo di verificare l'affidabilità e veridicità delle fonti delle notizie. Informazione e pubblicità. Queste dovranno essere sempre distinte in maniera esplicita. Incompatibilità. Il giornalista non può subordinare la propria attività professionale a un interesse personale o altrui. Inoltre, non può accettare pagamenti, rimborsi spese, regali, viaggi gratuiti e offerte simili, come non potrà accettare incarichi che possano entrare in conflitto con la sua attività professionale. Minori e soggetti deboli. Se questi soggetti sono, come vittima, protagonista o testimone, al centro di un procedimento penale, è vietata la diffusione del nome e le notizie non potranno essere rese disponibili ad una strumentalizzazione operata da adulti, compresi i genitori, per i propri fini. Con l'introduzione nel nostro ordinamento della più stringente normativa sulla privacy, grazie al decreto legislativo 196-2003, codice in materia di protezione dei dati personali, il quale ha sostituito la precedente legge 675 del 1996, è stata introdotta una nuova disciplina volta alla protezione della riservatezza dei dati personali. La funzione di questa normativa consisteva nel contemperamento dei diritti fondamentali dell'individuo con la libertà di stampa e con il diritto dei cittadini alla piena e libera informazione. Infatti, ad esempio, l'interessato deve essere sempre preventivamente informato, anche solo oralmente, tramite un'informazione che riporti il trattamento che verrà compiuto sui suoi dati, nonché gli scopi dello stesso. A quel punto l'intervistato potrà scegliere se acconsentire o rifiutarsi. Diritto di cronaca o concorso nel reato, il caso Notav. Come abbiamo avuto modo di vedere in questo capitolo, i possibili reati in cui potrebbe incorrere un giornalista sono numerosi. Tra i più frequenti vi sono la diffamazione a mezzo stampa e la pubblicazione di informazioni coperte da segreto. In quest'ultima ipotesi vi è una gran mole di giurisprudenza interna e comunitaria, la quale tutela il giornalista messo sotto inchiesta. Ad esempio, prendendo spunto dalle vicende Goodwin e Roemen, le sentenze di questi due processi possono essere utilizzati quando i giudici nazionali incriminano i giornalisti che si intendono avvalere del segreto professionale per non rivelare la fonte delle proprie informazioni. Infatti, questi potranno invocare a loro difesa, rifiutandosi così di rispondere ai giudici, l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, già citata nell'introduzione, nonché le sentenze della Corte di Strasburgo per i casi Goodwin e Roemen, i quali costituiscono degli ottimi precedenti giudiziari. Ma nulla viene detto nel caso in cui un giornalista, nell'ambito della sua attività di cronista, partecipi agli eventi di un altro nucleo di soggetti, concorrendo così nel reato loro imputato. Ci riferiamo nel caso specifico ad una vicenda di cui è stato vittima un giornalista, Davide F., il quale durante l'occupazione temporanea di uno stabile da parte di un gruppo di manifestanti è stato prima chiamato dai giudici come testimone dell'accaduto, salvo poi, dopo aver difeso gli occupanti, essersi ritrovato anch'esso sul banco degli imputati a titolo di concorso nel reato. I fatti qui descritti si riferiscono al 2012, quando un gruppo di dimostranti dei Notav entrarono nella sede di un'azienda che aveva appena vinto un appalto per la costruzione della tratta ferroviaria Torino-Lione, per esporre uno striscione e distribuire volantini. Così il giornalista, per raccontare in diretta l'avvenimento, entrò nell'edificio per raccogliere le testimonianze dei presenti. Nonostante l'azione si fosse svolta in modo pacifico, senza la presenza di forze dell'ordine e senza l'opposizione dei dipendenti dell'azienda, 19 attivisti furono denunciati con l'accusa di violazione di domicilio e violenza sulle cose, visto il rovesciamento di un vasetto di yogurt all'interno di un cassetto di un dipendente. Durante il processo il giornalista fu chiamato a testimoniare, ma descrivendo una realtà diversa da quella sostenuta dal PM, fu immediatamente accusato anch'esso di concorso nel reato, poiché poteva farsi raccontare l'accaduto in un momento successivo, come una conferenza stampa o chiedendo notizie alle forze dell'ordine giunte sul posto. Inoltre, il suo diritto di cronaca non gli era stato riconosciuto poiché non vi era, secondo il PM, un interesse pubblico alla diffusione della notizia. Il 9 aprile di quest'anno il giornalista Davide F. è stato condannato in primo grado a 4 mesi di reclusione. Utilizzando questa vicenda come mero esempio, ci chiediamo se in casi analoghi prevalga il diritto di cronaca del giornalista o l'offensività di un suo comportamento a titolo di concorso. La risposta non è semplice. In verità, anche se incomprensibilmente non è stata considerata la scriminante, cui facevano prima riferimento, dell'articolo 51 del codice penale, in questo caso particolare, come detto nell'introduzione, andrà operato un bilanciamento tra due situazioni valide, ma contrapposte, quali il diritto di cronaca e il reato di violazione di domicilio. Così sarà compito degli operatori del diritto valutare la prevalenza dell'uno o dell'altro. E ci auguriamo che questo avvenga in grado d'appello, essendo il diritto di cronaca un principio fondamentalmente tutelato dal nostro ordinamento, sia a livello nazionale che internazionale.